Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Tornano quest'estate gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura. Gli incontri di Voci in scena. Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io. No, non ero mai io. Nasce a Firenze nel 1979, esordisce nel 2000 nel film di Sergio Rubini Tutto l'amore che c'è, nel 2001 debutta in televisione nella miniserie La crociera, nel 2002 torna sul grande schermo con il film Paz diretto da Renato De Maria, ma a renderla famosissima presso il grande pubblico è la serie televisiva Elisa di Rivombrosa, grazie alla quale vince il Telegatto come personaggio femminile dell'anno. Nel 2005 torna al cinema in Ma quando arrivano le ragazze di Pupi Avati. Poi ancora TV, Le ragazze di Sanfrediano, La baronessa di Carini, Tutta la verità, C'era una volta la città dei matti, Anna Karenina. Nel 2008 è sul grande schermo con Colpo d'occhio di Sergio Rubini. Nel 2009 Gabriele Muccino la sceglie come coprotagonista nel film Baciami ancora, sequel dell'ultimo bacio. Nel gennaio 2014 esce nei cinema con la commedia Tutta colpa di Freud, diretta da Paolo Genovese. Intanto inizia le riprese di una mini fiction dedicata a Oriana Fallaci, che vedremo nella prossima stagione su Rai 1. L'abbiamo intervistata al Taormina Film Fest, dove ha incontrato centinaia di studenti. Lei è Vittoria Puccini. Ma è bellissimo, innanzitutto perché ogni volta che mi trovo appunto a fare queste cose così, queste masterclass, comunque questi incontri con i ragazzi in cui poi anche loro appunto mi chiedono consigli, è molto bello perché è uno scambio molto sincero di idee e di emozioni, no? Non ci sono filtri, non c'è proprio tutto molto diretto, e quindi loro mi fanno arrivare in maniera molto forte il loro affetto, e io, se posso mettere la mia esperienza a servizio loro, lo faccio molto volentieri, anche perché secondo me a volte ci si fanno anche idee un po' strane e sbagliate di quello che è il nostro lavoro, no? Il lavoro dell'attore. Si può pensare che il cinema sia... cioè Mastroianni diceva che non era un lavoro ed era solo divertimento. Certo, c'è tanto divertimento, io lo considero anche un lavoro in realtà, perché in realtà ti porta anche a dei grossi sacrifici, insomma una vita che ti richiede anche dei sacrifici, e comunque va fatto con professionalità e con il massimo dell'impegno, assolutamente, come ogni altro lavoro. E quindi secondo me in queste chiacchierate viene fuori anche un qualcosa che magari loro non si aspettano, o comunque possono avere appunto un'idea un po' falsata di quello che noi facciamo, e invece a me piace appunto invece sempre ricordare che insomma lavoriamo tanto, lavoriamo sodo, a volte anche senza orari. È chiaro che poi siamo dei privilegiati, questo è innegabile ed è assolutamente oggettivo. A me gli alle... sta dormendo. Il dottore ha detto che sta meglio. E te? Hai riposato un po'? Sì, stai tranquilla, sto bene. Elisa, tu mi hai dato un bacio, o era un sogno? Sì, ma state tranquilla ora. Dunque, mi ami? Io ho baciato un uomo che stava per morire. Quindi solo se sto per morire merito un bacio. Per fortuna state meglio. Ci avete fatto stare in pena. Ma adesso dovete riposare. Il medico ha detto che è molto importante. Va bene. Obbedisco. Resterò a marcire in questo maledetto letto fin quando tu non ti deciderai. Spesso poi nelle domande, anche qui in questi incontri, ti chiedono cose di Elisa di Rivombrosa. Sì. Non ti viene voglia a un certo punto di dire ma basta? Cioè, a volte mi incuriosisce sapere da un attore che ha interpretato un personaggio che poi torna sempre nelle interviste, non ti viene da dire basta, non chiedetemi più nulla di lei? No, mi verrebbe da dire basta se mi chiedessero magari di un personaggio che non mi è piaciuto interpretare, o di un film che è andato malissimo. Ma se continuano a chiedermi di quello che è stato un grandissimo successo e comunque comunque è un film a cui sono stata legata in maniera speciale, mi fa solo piacere. A me Elisa mi ha dato tantissimo a livello di popolarità, a livello di possibilità di carriera, perché dopo quel film sono arrivati tanti copioni, ho avuto una credibilità come attrice, insomma mi ha dato tanto. È chiaro che quando fai un film di successo poi è un qualcosa da cui a cui rimarrai sempre legata in qualche modo. Ho avuto comunque la fortuna poi nella mia carriera di interpretare ruoli diversi tra di loro, diversi da Elisa, diversi tra di loro, e quindi ogni volta di affrontare una sfida diversa. Quindi l'importante credo sia questo, di non fermarsi mai su quello che hai fatto, ma di provare sempre a andare oltre, a sfidare te stesso, a confrontarti con dei ruoli, con dei progetti che così magari sulla carta sembrano impossibili o difficilissimi, e invece poi tu ti metti in discussione e li affronti nel modo migliore in cui lo sai fare. Ecco, questo per me è l'importante. Giulia, apri. Giulia, che è successo? Ti devo parlare. Dimmi. Sono incinta. Sei incinta? Sei sicura? Sì, sono sicura, sono incinta. Giulia, non è possibile. È così. È pazzesco. È di Carlo. Di che? È di Carlo. Di Carlo. Giulia, che cazzo mi stai dicendo? Giulia, che cazzo dici? Quante cose è successo? Una. E dove? Qui sul nostro letto. Non ti prego, Simone. Le ho chiesto di fare un figlio con me, te sei incinta di tuo marito. Io non l'ho premeditato, è successo. Giada. Da quando è che stai lì? Non mi aspetto un bambino. Io? Ma che sei matta? Ma chi te l'ha detto una cosa così scema? L'ha detto tu. Ma no, amore. Io stavo parlando di una mia amica che aspetta un bambino. Papà lo sa. No. No. Vabbè, ascolta. Mi devi promettere che questa cosa che hai sentito non la dici a nessuno, soprattutto papà. La dici tu? No! Amore, ascolta. La cosa veramente importante è che rimanga un segreto tra me e te. Lo capisci? Va bene, allora promettimelo. Sì, te lo prometto. Grazie. Adesso posso andare a giocare. TV e cinema, adesso c'è più osmosi tra un mondo, sì, e l'altro. Invece tu sei stata però una delle prime, e quando hai iniziato tu, sebbene tu sia ancora molto giovane, però c'era ancora il muro, sì, tra una cosa e l'altra. C'era, tu sei riuscita. La, sì, televisione era, sì, più, cioè, per chi faceva cinema non era meglio non approcciarsi alla televisione, viceversa. E soprattutto c'era più snobismo nei confronti della televisione. Oggi questa differenza si sta sempre più assottigliando. Io spero di continuare a farla sempre. Cioè lavorare sia per il cinema sia per la televisione, perché credo nella televisione, credo nell'importanza, nel valore che la televisione ha, perché raggiunge, lo dicevo prima ai ragazzi, raggiunge comunque un pubblico enorme, ha un bacino di utenza anche superiore a quello del cinema, arriva nelle case di persone che vivono in paesi dove il cinema non c'è e quindi che non possono andare al cinema, e quindi fare film di qualità è ancora più importante, e quindi va fatta, io la voglio fare. Certo, deve essere una televisione di qualità, devono essere progetti fatti bene, curati, con dei professionisti. Oggi questo secondo me è possibile proprio perché, siccome non c'è più questo chi fa cinema non può fare televisione, non solo quasi tutti i registi, attori lavorano entrambi, diciamo fanno sia cinema che televisione, ma anche la troupe tecnica, per cui direttori della fotografia, scenografi, costumisti, bravissimi, di grandissimo talento, perché il nostro paese ne è pieno e forse in questo siamo veramente numeri uno al mondo. Invece prima lavoravano solo per il cinema, oggi fanno anche le fiction, lavorano anche per le miniserie o comunque per le serie TV, e questo rende possibile fare film di qualità anche in televisione. Porca miseriaccia, porca. Che succede, Marta? Don Chisciotte, Sansone e Dalila. Altri due libretti. Sono spariti altri due libretti. È il quarto furto in un mese, questo è sempre lo stesso. Un seriale. Sì, scherza. Ma qui la libreria arriva stenta a fine mese. L'importante è che mi paghi vitto e alloggio. Ma se questo continua rischio anche quello. Buongiorno. Buongiorno. E vorrei 50 sfumature di grigio. Il parrucchiere qui è tanto. Poi il suo colore naturale non le sta male. Ma veramente è un libro. Ah, davvero? Non lo conosco. Posso ordinarlo? No, mi spiace, stiamo chiudendo. Marta, se continui così qua chiudiamo davvero. Ma non è che possiamo vendere qualunque cosa. Questa libreria è qui da 60 anni. Nonno si rivolterebbe nella tomba. Difficile, l'abbiamo cremato. Ti voglio chiedere niente di fallaci, perché poi sì, dall'autunno ne parleremo esatto, tantissimo. Non ci mancherà. Fin troppo. Esatto, non ci mancherà. Però tu hai posto l'accento sul fatto che studi molto, cioè disciplina e anche studio, preparazione. Sì. Il tuo lavoro te lo impone anche? Certo, perché comunque, soprattutto quando vai a affrontare il ruolo di un personaggio che è realmente esistito, oppure se interpreti un ruolo di un personaggio che non è esistito, ma che comunque è inserito in un contesto sociale, storico ben preciso, devi andarti a studiare appunto quel personaggio, se è esistito, o quel contesto storico, sociale in cui è vissuto. E questo, insomma, è bello, perché in realtà ti permette di imparare sempre cose nuove, e lo studio di un personaggio serve a arrivare preparato sul set. Poi credo che in realtà, nel momento in cui inizi a girare, nel momento in cui sei sul set, ti devi dimenticare di tutto e devi lasciarti andare, come se l'hai interiorizzato, no? Metabolizzato, perché sennò poi diventa tecnica, diventa finto. Quindi una volta che sei sul set lo devi vivere e basta, per essere credibile. Però la preparazione è molto importante. Ed è tutto per questo Voci in Scena con Vittoria Puccini. L'appuntamento è per lunedì alle 13:30.